Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Si chiama Einstein Telescope ed è una nuova infrastruttura di ricerca che l'Europa intende costruire per dare un successore all'attuale generazione, la seconda, di rivelatori di onde gravitazionali. Ricorderete che pochi anni fa sono state misurate le prime onde gravitazionali da parte di due rivelatori, LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia. Onde causate dalla fusione di stelle di neutroni e o di buchi neri lontani da noi, onde la cui esistenza era stata prevista dalla teoria della relatività generale di Einstein circa un secolo prima. Ebbene, tra i siti che potrebbero ospitare questa infrastruttura di ricerca, l'Einstein Telescope, c'è anche la Sardegna, e siccome ogni grande infrastruttura di questo tipo implica, oltre naturalmente alla possibilità di dare risposte ad alcune domande fondamentali, in questo caso nel campo della fisica e della cosmologia, anche un portato in termini di ricadute tecnologiche e posti di lavoro, è con piacere che ne parliamo qui a Smart City. Allora diamo il benvenuto a Michele Punturo, che è dirigente di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Perugia ed è coordinatore nazionale ed internazionale del progetto Einstein Telescope. Buonasera, buonasera Punturo. Buonasera a lei. Allora, intanto descriviamo, per quanto in termini assolutamente generali, questa infrastruttura di ricerca, questo Einstein Telescope, che non è ovviamente uno di quei telescopi con gli specchi, no? Esattamente, è un Einstein Telescope, e T per gli amici, è un osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, cioè è un'infrastruttura di ricerca realizzata tramite sottoterra, circa 200 metri sotto la superficie, composta da tre bracci di circa 10 km ciascuno, disposta a triangolo equilatero. Il collocamento sottoterra serve per ridurre notevolmente il rumore ambientale, che potrebbe ridurre le capacità di scoperta di questa macchina. Sono tre tunnel fondamentalmente, appunto, che formano un triangolo. All'interno di questi tunnel viaggia un laser, fa avanti e indietro e si misurano i lati di questo triangolo, perché quando passa un'onda gravitazionale questi lati oscillano, si allungano e si accorciano. Esattamente, quando passa un'onda gravitazionale deforma lo spazio-tempo, e all'interno di questi tre tunnel abbiamo dei sistemi laser basati su alcuni specchi altamente riflettenti e su dei laser a bassissimo rumore. Questi sistemi misurano la variazione di distanza fra gli specchi stessi, o più correttamente la variazione di tempo che ci mette la luce a viaggiare da una parte all'altra dell'interferometro, questo è il nome tecnico, certo, della macchina, il nome tecnico, e misurando queste variazioni di tempi di percorrenza noi riusciamo a misurare l'effetto dell'onda gravitazionale sullo spazio-tempo, e quindi misurare il passaggio dell'onda. Perfetto, ecco, che cosa ci si aspetta di osservare in più rispetto a quello che riusciamo ad osservare con i sistemi attuali? E T avrà una sensibilità 10 volte migliore di quelle attuali, quindi vedrà un volume di universo circa 1000 volte maggiore. Questo ci permetterà di studiare la fusione di stelle e neutroni, comprendere di cosa sono fatte al loro interno, perché non sappiamo se effettivamente sono fatti di neutroni o di quarks o di altro, e non lo sappiamo. I buchi neri, se i buchi neri che stiamo vedendo o ascoltando con i detector attuali sono effettivamente regolati dalla relatività generale, quanti sono, e riusciremo insieme ai telescopi ottici comprendere il modello cosmologico dell'universo tramite quella che si chiama l'astronomia multimessaggera. Ecco, insomma, per gli appassionati di queste materie è qualcosa di assolutamente fantastico. Ecco, ci sono però, come sempre quando si parla di queste grandi infrastrutture di ricerca, anche delle ricadute tecnologiche, perché sempre c'è bisogno di sviluppare nuove tecnologie, e penso sia anche il caso dell'Einstein Telescope. Sicuramente, Einstein Telescope avrà bisogno di nuove tecnologie nel campo dell'ottica. Dovremo costruire componenti ottici, specchi ad altissime prestazioni, laser a basso rumore e la meccanica di precisione, perché dobbiamo contrastare le vibrazioni della Terra, il rumore sismico, e quindi dobbiamo costruire dei filtri sismici che riescano a filtrare le vibrazioni di 14 ordini di grandezza. Stiamo parlando di 100.000 miliardi di volte, più o meno. Esattamente, esattamente. E poi forse anche qualcos'altro nel campo della criogenia? Esattamente, dobbiamo abbattere il rumore termico, la vibrazione termica, e quindi dovremmo costruire sistemi criogenici ma a basso rumore. Ecco, a tutte queste ricadute tecnologiche si possono sommare anche delle ricadute in termini economici di posti di lavoro. Certamente, sia nella fase costruttiva che nella fase di operazione del rivelatore. Nella fase costruttiva dovremo costruire questa grande infrastruttura, sviluppare tutta la tecnologia. Abbiamo calcolato che genererà qualcosa come 35.000 anni uomo di lavoro, quindi per esempio se dura 10 anni la costruzione sarebbe 3.500 persone che lavorano. E nella fase operativa queste macchine sono molto delicate, necessitano cura continua, quindi un centro ricerche attorno all'infrastruttura stessa, e quindi si genererà circa un migliaio di posti lavoro tra diretti e indiretti per il mantenimento della macchina stessa. Tra l'altro tutti posti di lavoro altamente qualificati, no? Che non rischiano di delocalizzare tanto facilmente. Abbiamo bisogno di professionalità, di fisici, ingegneri, informatici, quindi tutte le specializzazioni ad alta tecnologia che sono estremamente importanti per IT. Senta, torniamo a parlare brevemente della Sardegna. Perché la Sardegna è un buon candidato per ospitare una infrastruttura di ricerca di questo tipo e con chi compete? La Sardegna ha delle caratteristiche geofisiche e ambientali favorevoli, è a bassissimo rumore sismico, è la zona più quieta probabilmente d'Europa, e ha una bassissima densità abitativa, quindi gli esseri umani sono purtroppo non rumorosi, generano vibrazioni, e quindi il sito in Sardegna sarebbe un sito con altissime potenziali. La competizione avviene con un altro sito che abbiamo identificato nel nord dell'Europa, nel confine fra Olanda, Belgio e Germania, che non ha esattamente le stesse prestazioni dal punto di vista del rumore, ma ha altri vantaggi. E va bene, allora grazie Michele Punturo, a presto. A presto, grazie. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, a voi tutti una buona serata.